Martina e oltre 500.000 di aziende e professionisti usano la fatturazione elettronica di Aruba perché è semplice, è completa e conveniente da una nuova intuitiva app. Fatturazione elettronica di Aruba. Chi l'ha scelta non la lascia più. Vai su aruba.it. Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco. Desideri deviati è il nuovo romanzo di Edoardo Albinati, premio Strega nel 2016 con La scuola cattolica, entrambi pubblicati da Rizzoli. È un romanzo quasi parallelo rispetto a Cuori fanatici, in cui si parlava della città del sud, ossia Roma, mentre Desideri deviati parla della città del nord, Milano, ma senza dichiararlo esplicitamente. Albinati sceglie di osservare la geografia umana e sociale di Milano all'inizio degli anni Ottanta, quando la città, ossessionata dal realismo, dal senso pratico, dal badare al sodo, cede il passo anche all'immaginazione e quindi diventa anche la città della moda, della pubblicità, dell'editoria. I personaggi sono tanti, questo è veramente un romanzo corale, lavorano infatti quasi tutti nella casa editrice di Tito Livio Minaudo. E troviamo personaggi come Nico Quell, giovane bello e talentuoso che però non riesce a trovare la sua strada. C'è anche il Coboldo, la vera mente della casa editrice, intellettuale rigoroso e appartato, e poi naturalmente ce ne sono tanti altri. La parola ad Edoardo Albinati. Quella città è particolarmente viva e interessante proprio nel momento di trapasso dalla Milano industriale, delle fabbriche, del fare, del saper fare, a questo mondo virtuale, illusorio, diciamo, diventa dalla città minerale, rocciosa, anzi direi ferrosa, la città invece delle attrazioni, delle proiezioni fantastiche, come sono quelle che diventeranno le protagoniste del decennio seguente, cioè le modelle. È molto bello, affascinante, e per un narratore anche un'occasione d'oro, insomma, raccontare il momento di passaggio dall'una all'altra cosa, come se in realtà poi il realismo, la fattualità, questo mito appunto della concretezza, poi contenesse al suo interno un antimito generato però dal primo, che è invece questo desiderio di evasione, cioè proprio quando si è estremamente pratici, concreti, fattivi e fattuali, poi si generano sogni, si generano immagini irreali, però le une sono legate alle altre, ecco, non sono l'una il contrario dell'altro, sono l'una la proiezione dell'altro. Ecco, in questo romanzo si parla molto di editoria, perché al centro del romanzo ci sono tutta una serie di personaggi. Questo è un romanzo corale veramente ricco di personaggi che comunque fanno capo ad una casa editrice nella maggior parte dei casi. Qui l'editoria viene vista come, diciamo, l'anello di congiunzione fra l'industria e la cultura, cioè anche il libro è un prodotto, anche se è un prodotto un po' particolare, perché è un prodotto appunto dell'immaginazione, un prodotto della cultura, ma quindi l'editoria è anche industria. Beh, proprio per questo è così interessante, io poi l'ho, diciamo, eletta come luogo di lavoro, volevo descrivere un luogo di lavoro che potesse essere contemporaneamente l'una e l'altra cosa. Non è un caso che l'editore, il padrone, come lo chiamava Parise, di questa casa editrice, ama definire la propria azienda la fabbrica, anche se in realtà si tratta di uffici dove si fa un lavoro, diciamo, per lo più intellettuale, ma poi alla fine questo servirà a creare dei prodotti, delle merci, che sono i libri, che sono anche delle merci, sono al tempo stesso merci spirituali e merci commerciali, materiali, quindi sono degli oggetti non diversi dai bulloni o dai parafanghi o delle automobili, ma al tempo stesso sono anche, come dire, prodotti dello spirito. E questo è il bello, no? del poter trovare delle persone che lavorano a qualcosa che al tempo stesso è un'intrapresa economica, ma è anche un'intrapresa culturale e spirituale. Peraltro le case editrici, io un po' le ho conosciute per via del mio mestiere, insomma, e per averci anche temporaneamente lavorato dentro, e L'ufficio è il posto ideale dove sviluppare legami, amicizie, amori, odi, risentimenti, concorrenza, collaborazione. E infatti ci sono appunto odi, amori e vari sentimenti che si realizzano fra i protagonisti di questo romanzo. A un certo punto tu scrivi che anche nel mondo dell'editoria ci sono naturalmente invidie, gelosie, concorrenza, così come in qualsiasi altro tipo di industria. Però poi fai una chiusa, come dire, non sarcastica perché è realistica, cioè tutti si muovono sostanzialmente per nulla, nel senso che è un mondo poco ricco da molti punti di vista. Quindi comunque ci sono queste gelosie, queste invidie, però combattono, quasi per il nulla. È così? Ma io personalmente trovo più interessanti, più umani i rapporti di potere quando in ballo c'è poco, quando in ballo c'è una nazione, una grandissima industria, quando si combatte per milioni o miliardi di euro. Sì, mi sembra ovvio distruggersi a vicenda. È molto più interessante, anche struggente oppure terribile, il fatto che quando lo si fa per dei risultati, diciamo, economicamente poco rilevanti. Quindi l'idea che uno scrittore possa vendersi l'anima per vincere un premio letterario, il Fauno d'Oro, adesso non sono inventato, insomma, però c'era una volta, credo di ricordare, un divertentissimo pezzo di Umberto Eco, appunto, dove un libro che si intitolava Il Fauno, pubblicato dalla casa editrice Il Fauno, partecipava al premio letterario Il Il Fauno, Fauno, quindi insomma tutto in famiglia. esatto, tutta una cosa, però. Anche per quello si combattono delle battaglie microscopiche, però all'ultimo sangue. Allora, quando il sangue viene versato per così poco, lo trovo ancora più impressionante e anche più divertente da raccontare, più struggente, più intimo che le grandi, diciamo così, imprese per cui la Microsoft combatte contro Facebook, non so, adesso Sì, sto certo. Invece in inventando. questo caso, appunto, abbiamo detto nell'editoria non è un mondo ricco, particolarmente Il ricco, mondo della quindi cultura in mondo della generale, cultura. no? Si combatte talvolta per relativamente poco, ma anche si hanno aspirazioni violentemente elevate. E da questo punto di vista, Milano nell'epoca, cioè nei primi anni Ottanta, era veramente quasi esclusivamente per noi che eravamo dei giovanissimi letterati in cerca di non si sa bene cosa, il faro. Insomma, da Roma guardavamo a Milano come questa specie di, non so, di Eldorado delle lettere, dell'editoria, da in qualche modo conquistare e spugnare. Ecco, in questo tuo romanzo ci sono varie tipologie umane, ci sono tanti personaggi, è impossibile parlare di tutti, però diciamo, per esempio, c'è Nico Quell, che era già stato protagonista di un altro tuo romanzo, che era Cuori Fanatici, in cui si parlava della città del sud, in quel caso di Roma, qui parliamo della città del nord, di Milano. Ecco, Nico Quell è un ragazzo bello, brillante, talentuoso, che sembra però non andare a parare a nulla, nel senso che poi sembra non realizzare nulla di concreto. È anche un po' il cocco dell'editore, insomma, è il suo favorito, però ha sempre questa quasi incapacità di arrivare a realizzare concretamente i suoi obiettivi. È perché è questo il desiderio deviato del libro, i desideri deviati. Che cos'è che veramente vuole Nico Quell? Che cos'è? Vuole avere successo nel suo lavoro? Vuole avere degli amori travolgenti? Vuole emulare il padre, un ambasciatore che ha avuto una carriera, Un un cognome che pesa nella cognome sua vita. importante? Chi molto vuole o chi vuole, diciamo, in maniera così variegata, poi che cosa stringe? In realtà sembrerebbe che quella abbia tutto. Allora, quelli che hanno tutto, poi che cosa ottengono, visto che già ce l'hanno tutto? Quindi questo personaggio, a cui sono molto affezionato, proprio perché quello che nel risvolto di copertina viene definito, ovviamente con un riferimento un po' megalomane all'uomo senza qualità, viene definito il ragazzo senza Senza qualità. qualità, che in realtà le qualità ce l'ha tutte. Però serve da tramite, diciamo così, con tutti gli altri personaggi, cioè è colui che ci trasporta con le sue avventure e ci fa conoscere una serie molto ampia, giustamente tu parli di romanzo corale, di personaggi che hanno riferimenti in vari mondi, quindi il mondo dell'editoria, il mondo della moda, il mondo degli occupanti abusivi di una fabbrica Dismessa. dismessa, che sono dei fabbricanti di oggetti artistici molto particolari. Quindi il mondo della moda, appunto, essendo fidanzato con una bellissima modella nera e così via. Quindi è come spesso succede nei romanzi, chiamiamoli così, di formazione, è il giovane che affronta i pericoli e le attrazioni della vita, però quasi per introdurci a tutti gli altri protagonisti di questa storia. E da questo punto di vista Milano è un set ideale, proprio perché ha una stratificazione, aveva una stratificazione, forse adesso di meno, ma allora sicuramente sì, sociale, con dei gradi, dei livelli molto distinti che vanno appunto dalla fabbrica dismessa fino Sì. E alla festa mondana, dagli architetti alla moda. questa è una scena un po' clou del tuo romanzo, la festa a casa appunto degli architetti Igor e Vera Macchi. Questa è una scena appunto fondamentale di questo romanzo perché il narratore è come una mosca che passa da una persona ad un'altra e va ad origliare i discorsi che stanno facendo. Quindi vengono fuori appunto tutti i tipi umani e tutto quello che pensano. C'è per esempio un personaggio che a me è piaciuto moltissimo, il Coboldo, che è un po' insomma è la vera anima di questa casa editrice perché è l'erudito, è la persona colta, è quello che sta anche un po' in disparte, che generalmente nelle retroguardie, generalmente non frequenta le feste. Che poi per una ragione insomma che non spieghiamo decide di andare a questa festa. Ecco, tu fai interpretare al Coboldo anche il ruolo dell'intellettuale rigoroso e appartato, di colui il quale ha deciso di dedicarsi alla cultura anche quasi per erigere un muro fra sé e il resto del mondo. Ecco, in che modo Coboldo, il Coboldo, chiamiamolo così, vive questo suo rapporto con la cultura, con i libri, e in che modo invece si trova in difficoltà poi con, come dire, con i sentimenti? Ma il Coboldo è uno dei protagonisti, forse alla fine potrà essere anche il protagonista assoluto del romanzo, perché è quello che subisce la più drammatica trasformazione, diciamo, da come viene presentato a quello che poi gli accadrà. Perché? Perché è un uomo che ha un'età, diciamo, ormai insomma, non più giovanissima, a metà dei suoi 40 anni, ha investito tutto se stesso, quindi la sua ragione, le sue forze, la sua energia, il suo amore nei libri, nella cultura, effettivamente erigendo questo muro che gli serve essenzialmente come protezione. Noi parliamo molto spesso in favore della cultura, perché così bisogna dire che è una cosa buona, I positiva, libri costruiscono i ponti, in libri. questo caso lui I libri costruisce possono una anche barriera. servire a costruire delle barriere, perché io ho una cultura, tu non ce l'hai. Questo muro crolla a un certo punto perché più forte ancora di questo amore struggente, maniacale, di erudito nei confronti dei libri e della cultura, si trasformerà invece in un amore passionale per una donna. E questo era Edoardo Albinati, ora in libreria con Desideri deviati, pubblicato da Rizzoli. Una breve pausa e poi torneremo a parlare di libri. Il cacciatore di libri. Sveva Casati Modignani, la signora della narrativa italiana, è arrivata al romanzo numero 33 dopo aver venduto nella sua carriera 12 milioni di copie nel mondo. Si intitola Il Falco ed è pubblicato come gli altri dalla Sperling & Kupfer. Un romanzo che parla di amore a 60 anni ma anche di sesso e questa è la prima volta che in un romanzo della scrittrice ci sono scene di questo tipo. La protagonista è Giulietta, 60 anni appunto, vedova da oltre 20, che incontra un suo amore di gioventù. Rocco Di Falco, che nel frattempo è diventato un imprenditore di successo. Non si vedevano da 40 anni. Rocco, dopo quattro matrimoni falliti, vuole assolutamente raccontare a Giulietta la storia del suo passato, quando i suoi genitori lasciarono la Sicilia e si trasferirono a Milano. Ma in che fase della vita si trova Giulietta quando incontra nuovamente Rocco? Giulietta si trova in una fase beata perché è una donna vicina ai 60 anni che ha una figlia stupenda, un nipotino delizioso, un genero che la adora. È in una fase tranquilla della sua vita. Peccato che questa serenità, questa tranquillità nascondano un dramma sentimentale che l'ha segnata davvero profondamente da quando aveva 20 anni, da quando si era innamorata di questo artigiano che fabbricava occhiali e non sapeva che sarebbe diventato uno degli uomini più importanti e ricchi del mondo, ma era comunque un tipo fuori dal comune. A parte il fatto che era bellissimo, ma aveva qualcosa di misterioso, di catturante, aveva fascino da vendere e lei per lui aveva perduto la testa. Tant'è che negli anni 60, 70, quando ancora il perbenismo era imperante e una donna non poteva concedersi al proprio fidanzato se non dopo che lui l'avesse portata all'altare, lei che ha fatto il 68 non ci ha pensato due volte, anzi è lei che glielo E propone, infatti è perché lei. lui ha mille remore e dice: ma scusa, tu non lo sai, ma sulla fronte c'è scritto fragile da manovrare con cura, quindi io mai oserei chiederti. E invece lei quasi insiste su questo aspetto, anche perché, lo dobbiamo dire, questo è il tuo primo romanzo in cui il sesso compare in maniera più presente. Diciamo che negli altri romanzi era stato giusto sfiorato, si dava più importanza ai sentimenti, allo sviluppo della storia d'amore, allo sviluppo anche degli elementi sociali delle storie, quindi come la storia con la S maiuscola entrava nelle storie con la S Sì. minuscola. In questo caso invece hai voluto anche andare a descrivere delle scene di sesso, come mai? Ma perché qui il sesso è interpretato in chiave educativa. Cioè, Rocco, il protagonista, ha questa sua insegnante ripetitrice privata di inglese, che è un irlandese, trentenne, rossa di capelli, un po' troia, diciamocelo. Affascinante, è molto Molto affascinante. affascinante, che del sesso conosce tutto e ha capito le debolezze di questo ragazzo e poiché lo stima e gli vuole bene, gli fa da nave scuola, ma gli insegna il sesso, quello vero, quello che contempla il rispetto per la donna, il sesso che è una tappa nella vita di una coppia e che va trattato con delicatezza, con cura. Lei gli dice: il sesso usa e getta, è brutalità. E il sesso è un'arte, proprio l'ars amandi. E questo fa di lui un uomo più sicuro di sé. Impara anche a controllare le sue pulsioni sessuali, proprio attraverso l'educazione che gli impartisce Molly. Quindi era inevitabile che, parlando della formazione di quest'uomo, io parlassi dei suoi drammi familiari e parlassi delle sue prime esperienze amorose. Infatti, perché Molly incontra Rocco quando Rocco ha soli 17 anni, quindi Certo. veramente è una formazione di vita. Nel momento in cui Rocco incontra nuovamente Giulietta dopo 40 anni che non si sono visti, Giulietta ha 60 anni e lui un pochino di più, ecco, scatta naturalmente qualcosa, forse qualcosa che non è mai venuto meno, ma soprattutto Rocco ha la voglia di raccontarsi, ha proprio voglia di raccontare il suo passato a Sì. Giulietta. Perché? Da dove nasce questo Perché lui ha desiderio? questo senso, intanto è un uomo timido, un uomo di successo, conosciuto in tutto il mondo, di cui tutti i giornali parlano, però di fondo ha una timidezza pazzesca e non se la sente, cioè poi lui non ha ancora elaborato completamente il rapporto che ha avuto con la madre, la storia Erano della. molto, lui era molto legato a sua madre, era un rapporto quasi Ma simbiotico. lui è quello che ha insegnato alla mamma a leggere e scrivere. La mamma analfabeta, Analfabeta. lui le ha insegnato a leggere e a scrivere ed era un bambino di 6 anni, faceva la prima elementare. E per lui aveva sempre una preferenza smaccata rispetto agli altri figli. Quindi era un rapporto molto intenso e importante che lo ha aiutato da un certo punto di vista crescere, ma gli ha anche procurato grossi traumi. Il demone della gelosia non lo abbandonerà mai, neppure con Giulietta, quando Giulietta avrà 60 anni. E anche forse la paura di essere abbandonato, perché questa la paura è dell'abbandono che lo caratterizza. Perché sentimentalmente è un uomo assolutamente, come tutti i grandi uomini, da un punto di vista sentimentale è insicuro. E la serenità del rapporto di coppia a lui gliela dà solo Giulietta. E Giulietta che lui, da cretino qual è stato, ha perso. Perché lei lo ha mollato, veramente. Ecco, ma c'è un modo diverso di vivere le relazioni d'amore e anche di sesso dopo i 60 anni? Perché in questo romanzo c'è la relazione appunto fra Giulietta e Rocco, ma c'è anche la relazione di una cara amica di Giulietta, Augusta, sì, con un altro uomo. Insomma, quindi dopo i 60 anni... Beh, Augusta direi che è più giovane di una decina d'anni di Giulietta. Si è separata, ha divorziato dal marito da poco, è una moglie e una madre frustrata. Sì, è vero, lei è più giovane, invece Giulietta rivive l'amore. Giulietta ritrova. A 60 anni ritrova l'amore dei suoi 20 anni. Ma c'è qualcosa di diverso. I due si conoscono a memoria, anche cioè non sono due sessantenni che si sono conosciuti il giorno prima. Il loro corpo lo conoscono a memoria, si sanno, si conoscono da sempre, quindi si rivedono quegli occhi dei loro 20 anni. Quindi non cambia nulla sostanzialmente. Diventa più bello, il sesso diventa più bello se è una donna appagata. Questo è un romanzo in cui si parla anche molto del rapporto fra fratello e sorella o fra fratelli, perché Rocco ha un rapporto molto bello con uno dei suoi fratelli che fa il sacerdote e invece Giulietta ha un rapporto bellissimo con uno dei suoi fratelli, Roberto, che vive in Francia e sa tutto della sua vita, sa tutto della storia di Rocco e così via. Tu hai dedicato questo romanzo a tuo fratello. Quanto è importante il rapporto? Perché quando i fratelli sono amici e complici quasi... sono uno parte dell'altro, è come se fossero due in uno, diventano più forti, diventano più sicuri di se stessi, si sentono, si spalleggiano a vicenda. È importante questo rapporto, e il rapporto con mio fratello non finirà mai. Siamo stati insieme per tutta la vita, io l'ho visto crescere. Lui era bambino, io avevo 11 anni più di lui, e lui era un ragazzino che andava a scuola, e un giorno l'ho sorpreso a dire a un suo amico: come sono sfigato. Dice: ma perché? Perché tu hai una mamma sola e io ne ho due. Perché io ero la sorella mamma. Più grande, certo. E poi invece crescendo lui mi considera la sorellina da proteggere, e lui mi sta attaccato anche in questo momento qui con noi, qui con me. E mi riempie la vita. Ecco, nei tuoi romanzi è sempre presente l'amicizia fra donne. In questo caso vediamo l'amicizia fra Giulietta e Augusta. Eppure fai dire a Giulietta che anche fra amiche non ci si racconta tutto. Ci sono dei segreti, forse delle cose di cui ci si vergogna anche di confessare all'amica più cara. Ci sono quindi dei segreti. Ma non sono necessariamente cose vergognose. Sono cose che riguardano il proprio intimo e che non spartirai mai con nessuno, ma credo che ognuno di noi abbia questi piccoli angoli di privatezza proprio totale, assoluta, che tale deve restare, perché non puoi esternarli, sono cose tue, ti appartengono. Quindi anche quando l'amica dice a Giulietta: ma tu hai avuto una vita semplice, colpifero, perché certo, non sa tutto quello che c'è stato. Ha avuto un marito straordinario, un padre che è stato un padre affettuoso per sua figlia, che è stato davvero una brava persona, che le ha regalato tanta serenità. Ma lei non sa la sua amica, la dottoressa di base, Augusta, non sa la realtà di queste cose, che lei tiene per se stessa. E questa era Sveva Casati Modigliani, ora in libreria con Il Falco, pubblicato da Sperling e Kupfer. A